scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembrando tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino. Ho scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembrando tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino. Ho iniziato a camminare nella notte buia, aprendo a spiragli alle genti, con gesti, tagli ai tabù per molti versi. Ho aperto il cammino della selva oscura, soffiando via i forti venti, con lame tra i denti, che i piedi astenti camminavano lenti. Ho scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembrando tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino. Ma un giorno ho visto la via tornare, il sonno e la veglia si confusero e la mia mente iniziò a sopportare il rumore della gente, dimenticando fatiche e sofferenze. Ho scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembrando tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino, l'aperto cammino, l'aperto cammino. Ma non ho ancora armi grandi per uccidere e di uccidere non ho voglia. Tagli e questo è il vedere oltre il buio, ami colpiscono e io muoio e risorgo subito, fragile comunque, troppo reali sono le acque di questo mondo triste, dunque ho bisogno oltre la poesia di un aspetto reale, eresia del puro in denaro, il denaro serve, io ammetto, per colmare ogni mio difetto, il mondo dovrebbe pagare tutto questo torto, no, me col torto per questo, voglio denaro, detto diretto. Ho scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembravano tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino. Tutte le anime sembrano urlare, che c'è fame, sol l'anima non fa volare. Se c'è fame, prima classe dell'anima, con terzo mondo nel denaro. E ho scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembrando tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino. Tutte le anime sembrano urlare, c'è fame, solo l'anima non fa volare. Se c'è fame, prima classe dell'anima, col terzo mondo del denaro. E ho scoperto che i miei passi di bimbo erano passi giganti di altri, sembrando tante ombre d'impronte che indicavano più vicino l'aperto cammino, l'aperto cammino. Tutte le ombre di tutte le anime sembrano urlare che c'è fame, solo l'anima non fa volare, se c'è fame, prima classe del denaro col terzo mondo dell'anima, se non c'è e c'è, voglio denaro, detto diretto, prima classe dell'anima, terzo mondo del denaro.